Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo a lungo della vicenda autostradale e soprattutto del ponte di Genova, perché c'è adesso un incontro che dovrebbe essere iniziato da pochi minuti e soprattutto tiene ancora banco, non solo a livello politico chiaramente, ma anche e soprattutto a livello pratico, nel senso che poco fa l'ANSA ha diffuso un'agenzia in cui sostanzialmente che il nuovo ponte di Genova sarebbe andato poi in gestione al concessionario, emerge da un carteggio della Direzione Generale del Ministero per la Vigilanza sulle Autostrade già a inizio 2019, quindi col governo giallo-verde, ministro dei trasporti Danilo Toninelli, in cui si precisava che la gestione del nuovo ponte costruito dopo il crollo del Morandi sarebbe stata affidata al concessionario, ad oggi si legge ancora Autostrade per l'Italia, fatta salva ogni eventuale variazione del rapporto concessorio che dovesse derivare dall'esito della procedura di contestazione. Dicevo, vertice al Ministero delle Infrastrutture che è iniziato poco fa, resta il tema dell'assetto azionario e la proposta di l'ipotesi di far entrare la Cassa Depositi e Prestiti, il fondo F2I, portando la quota di partecipazione di Atlantia in Autostrade per l'Italia, attualmente all'88%, al di sotto del 50% di Autostrade per l'Italia. In ballo però ci sono 7 miliardi di investimenti pronte a partire subito. Il piano complessivamente ne prevede 14,5 fino al 2038 e poi comunque, al di là della posizione degli azionisti Benetton, vale la pena ricordare che Autostrade per l'Italia comunque ha 7 mila dipendenti. Allora, un conto è l'azionista e un conto però sono anche i dipendenti. E questa mattina c'è stato anche un consiglio di amministrazione di ASPI per fare il punto sulla vicenda. Ne parleremo ampiamente, altre dichiarazioni da parte di esponenti politici, penso a Buffagni, vice ministro dello sviluppo economico, che ha detto che è fondamentale che Benetton non gestiscono più le autostrade, e poi Cancellieri, il vice ministro delle infrastrutture e trasporti, Giancarlo Cancellieri, ha detto che il governo mette la parola fine e non possiamo più aspettare, abbiamo lanciato un grido d'allarme 4 mesi fa ma è stato poco ascoltato e serve un commissario di governo. E anche il sottosegretario all'ambiente Morassut ha detto la revoca non è impossibile. Ne parleremo appunto ampiamente perché la vicenda a mio avviso sconta in questo momento un problema anche di tempistica, cioè il ponte da quello che si è capito verrà consegnato inizio agosto. Dubito che si possa, a meno che non si trovi un accordo con ASPI e con appunto soprattutto Atlantia, dubito che si possa arrivare a una soluzione da qua al primo di agosto, visto che in questi ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, in 2 anni non si è arrivati a nessuna soluzione. A chi mi scrive il governo 4 mesi fa penso avesse altri problemi, ma ci mancherebbe. La lettera però che l'ANSA ha avuto modo di consultare è relativa a inizio del 2019, non a inizio o a febbraio o marzo del 2020. Parleremo di questo, parleremo anche del turismo, perché ci sono nuovi dati che riguardano sia le presenze alberghiere a giugno, sia anche le stime sulla perdita di turisti per esempio nel comune di Milano, e un'ipotesi di promozione con gli albergatori, una notte gratuita a Milano per i prossimi 12 mesi se si pernotta almeno 2 notti, e anche l'andamento del bonus vacanze. Dopodiché parleremo anche di una vicenda che rientra diciamo in maniera laterale sul tema della crisi del turismo, però oggi la Commissione europea ha criticato la decisione dell'Italia sulle concessioni balneari. Seguiamo da vicino la situazione per risolverla al più presto affinché la legge italiana sia conforme al diritto dell'Unione europea. Per cosa è successo? L'Italia ha esteso la concessione per gli stabilimenti balneari fino al 2033. Ci sono dei casi limite in cui obiettivamente c'è un costo di concessione irrisorio per stabilimenti balneari che insomma hanno giro d'affari tutt'altro che risibile. E il tema emerge dal, diciamo, la proroga fu inizialmente decisa dal governo giallo-verde per portare tutto alla fine del 2033. Nel 2016, questo è l'ultimo dato che abbiamo a disposizione, su 52.619 concessioni demaniali marittime, lo Stato ha incassato poco più di 103 milioni a fronte, questo era il dato di Legambiente, di un giro d'affari che era stimato in 15 miliardi di euro. Allora è chiaro che da un lato in questo momento gli stabilimenti balneari li avremo ospiti, ospite rappresentante, sono in, come tantissimi altri settori turistici, in estrema difficoltà. La stagione parte tardi e anche debole, poi in maniera molto diversa da regione a regione, ma tardi e in maniera debole. Però un conto è, diciamo, non penalizzare il settore quest'anno, altra cosa è posticipare tutte le concessioni direttamente al 2033. A mio avviso, modestamente, si poteva anche trovare una soluzione intermedia, cioè sospendere la gara per le concessioni almeno per un anno, per carità, ma poi riprendere in mano la matassa sull'anno prossimo. Comunque ce ne occuperemo più avanti e parleremo anche poi di un settore che sta cercando di trovare nuovi sbocchi. Mi riferisco a un settore che per l'Italia è fondamentale, viene chiamato in generale il settore del lusso, ma in realtà sarebbe meglio chiamarlo l'alto di gamma, come fanno gli operatori. Noi in questo settore abbiamo delle cifre di tutto rispetto, avevamo delle cifre di tutto rispetto, 30% nell'arredamento di design, 23% come quota mondiale nel lusso per la persona, quindi dall'abbigliamento agli accessori, la calzatura, la pelletteria, il 30% nel cosiddetto food and beverage e nella ristorazione, il 22% nei liquori, vini, 40% della nautica di alta gamma. Ora, noi da questo punto di vista stimiamo più o meno 400.000 occupati diretti e indiretti per un'industria che vale 115 miliardi, pari quasi al 7% del PIL italiano. Se ne è parlato in un incontro organizzato anche con l'ufficio del Parlamento dell'Unione Europea in Italia e la rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Devo dire, è uno dei pochi settori che ancora non siamo riusciti a trattare in questi settimane durante il Covid e anche post lockdown. Per quello che riguarda invece i mercati finanziari, segnalo che Milano si avvia a chiudere in maniera debole e tra l'altro tra le peggiori oggi in Europa, assieme a Londra. Londra meno 1,70, Milano meno 1,80, pesa soprattutto il calo di Atlantia, ed è chiaro il motivo, meno 7,60%, e poi Saipem meno 4,40, Leonardo meno 4 come Diasori, Tenaris meno 3,70, Banco BPM meno 3,5, Unicredit meno 3,20 come Interpump. Invece chi guadagna si chiama Campari, più 1,5, e Steam Electronics più 1,20, ricordati più 0,50%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Oh, Allora, per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, dagli Stati Uniti sono arrivate la settimana scorsa 1.300.000 richieste di sussidi di disoccupazione. Il dato è buono, ci si attendeva 1.300.000, ricordo sempre 1.370.000. Ricordo sempre che prima dello scoppio della pandemia le richieste erano tra i 200 e i 230.000 sussidi a settimana, quindi stiamo parlando di un livello che comunque è almeno 6 volte più alto, ma in calo di 700.000 i disoccupati rispetto alla settimana precedente. Attualmente percepiscono il sussidio di disoccupazione 18 milioni di americani. È invece stato il giugno peggiore da oltre un decennio per il mercato delle case in affitto a New York. I nuovi affitti sono crollati del 36%, i prezzi medi del 6%, e addirittura molti proprietari di case, per attirare i clienti, offrono uno o due mesi di affitto gratis. Poi ci sono 110 aziende americane già in bancarotta. Ha fatto molta notizia la richiesta del Chapter 11 da parte di Brooks Brothers, anche perché era molto conosciuto come marchio dell'abbigliamento, però sono rivenditori al dettaglio, compagniere, ristoranti. Praticamente sono 110 le imprese che hanno già gettato la spugna. E tutto questo mentre la campagna elettorale americana è in corso e Joe Biden ha lanciato il piano Buy American, un piano da 700 miliardi di dollari. Chiaro che l'ha lanciato come proposta di campagna elettorale, in campagna elettorale. Prevede l'uso di 400 miliardi di fondi federali per l'acquisto di prodotti americani e 300 miliardi in ricerca e sviluppo nelle società tecnologiche. Venendo all'Europa, il Recovery Fund da 750 miliardi di euro per sostenere i paesi più colpiti dalla pandemia sarebbe un punto di svolta, ma secondo Christine Lagarde, numero uno della Banca Centrale Europea, l'ok dei vari leader europei potrebbe arrivare non il 18 luglio, ma a fine luglio, quindi prima di agosto. E poi segnalo alcune dichiarazioni del Premier Conte, che in un'intervista al canale spagnolo News ha detto: non vogliamo nessun compromesso al ribasso, l'accordo deve essere un accordo fatto da una decisione politica ambiziosa. E ha detto Conte, spiegherò al Premier olandese Mark Rutte che abbiamo fretta nell'interesse di tutti, non solo nostro ma anche dell'Olanda. Perché se lasciamo che si distrugga il mercato unico, i danni saranno anche per l'Olanda, non solo per Italia, Spagna, Portogallo e Francia. C'è stato un rimbalzo dell'export in Germania nel mese di giugno, meno delle stime, quindi meno delle attese. Ha fatto un più 9% su aprile, e quando aveva fatto un meno 24%, le attese erano di un più 14%. Veniamo all'Italia. Per quello che riguarda il dato diffuso oggi dall'Istat e dall'Istituto Superiore della Sanità, nel mese di maggio si è esaurito il drammatico eccesso di mortalità dei mesi di marzo e aprile. È sostanzialmente il rapporto Istat-ISS sulla mortalità totale e sui soggetti positivi al Covid-19 deceduti in maggio. I decessi totali di maggio risultano addirittura lievemente inferiori alla media dei decessi dello stesso mese nel periodo 2015-2019. L'unica area dove c'è un dato più alto rispetto alla media degli anni precedenti è sostanzialmente la Lombardia, dove c'è un eccesso del 3,9%. Va detto però che l'incremento nel mese in Lombardia a marzo fu del 190%, ad aprile del 112%. Il DL rilancio nel frattempo è stato approvato dalla Camera, il testo passa al Senato, è previsto che approdi al Senato il prossimo 14 luglio, il decreto, ricordo, scade il 18 luglio. Per quello che riguarda invece i dati cosiddetti, insomma, sui prestiti bancari, in questo caso sono i prestiti delle banche al di là di quello che sono i finanziamenti garantiti dallo Stato. Allora, i prestiti bancari hanno fatto più 1,5% nel mese di maggio rispetto a maggio 2019, di cui un più 1,3% per le famiglie e più 1,9% per le imprese non finanziarie. Le sofferenze bancarie sono calate meno 11,6%. A proposito invece dei famosi 30.000 euro, la parte quella garantita al 100% dallo Stato, l'Associazione Bancaria Italiana ha inviato una circolare alle banche associate per l'applicazione dell'articolo 13, quello per i finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia Piccole e Medie Imprese. Nello specifico, per i finanziamenti garantiti al 100%, quindi quelli fino a un massimo di 30.000 euro, l'ABI ha chiarito, e sapete che è stato modificato in fase di conversione in legge, da 25.000 euro per 6 anni a 30.000 euro fino a 10 anni. Allora, c'era il dubbio di che cosa fare, che cosa avrebbe dovuto fare chi avesse già ottenuto il prestito da 25.000 euro ma avesse voluto trasformarlo in 30.000 con una scadenza più lunga. Allora l'ABI ha chiarito che è possibile inviare al fondo di garanzia in via massiva, e quindi più velocemente, le richieste di adeguamento delle garanzie a maggior importo, quindi fino a 30.000, e a maggior durata fino a 10 anni. E l'operazione di adeguamento del finanziamento e della relativa garanzia deve avvenire attraverso il portale del fondo di garanzia. E quindi la modifica della garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione del fondo. La banca può procedere all'adeguamento del finanziamento subordinatamente alla verifica formale dei requisiti senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del fondo. Quindi sostanzialmente la banca, una volta verificati i requisiti richiesti, non c'è bisogno di... La cosa importante è che non c'è bisogno, secondo questa circolare dell'ABI, di rimpostare tutta la pratica se uno volesse passare da 25.000 a 30.000 euro. Tra l'altro è interessante quello che ha deciso oggi il Tribunale di Caltanissetta, che ha dato ragione a un imprenditore titolare di una piccola impresa che aveva fatto ricorso dopo essersi visto negare i 25.000 euro previsti appunto dal Cura Italia. La banca aveva opposto un generico veto perché diceva che non c'erano i requisiti per chiedere il prestito agevolato. Il giudice però ha emesso un'ordinanza di accoglimento con la quale ha ordinato alla banca di pagare immediatamente la somma richiesta, anche perché ha detto l'avvocato dell'imprenditore, per questa categoria di prestiti non c'è valutazione di merito di credito, è sufficiente un'autocertificazione sui ricavi. Anche questa novità introdotta nella trasformazione in legge del decreto Cura Italia. Allora, interessante invece sul tema di come stanno le famiglie italiane. In questi giorni abbiamo discusso, abbiamo avuto vari rapporti Istat, ma non solo, sulla difficoltà, Prometeia ieri, difficoltà di arrivare a fine mese per molte famiglie italiane. C'è però in parallelo anche un altro fenomeno che abbiamo già fotografato guardando i dati sui depositi bancari a maggio, tutti in crescita forte, che oggi il Censis mette sotto ingrandimento. Perché? Perché è vero che il 68% degli italiani ha paura per la situazione economica familiare e la percentuale sale al 72% tra i millennials e le donne. E sfiora il 75% al sud, supera il 76% tra gli imprenditori e arriva all'82% la paura tra le persone con i redditi più bassi. Però è altrettanto innegabile che il 39% degli italiani ha incrementato il proprio risparmio nel periodo del lockdown, una percentuale che sale al 49% tra i risparmiatori abituali. Perché vi sono stati 28 milioni di percettori di reddito le cui entrate non sono state intaccate, nello specifico pensionati, dipendenti pubblici, lavoratori del settore privato non in cassa integrazione o non in congedo parentale, pari al 71% del totale, quindi il 30% ha avuto sì o cassa integrazione o addirittura non è stato rinnovato il contratto o utilizzato il congedo parentale, quant'altro, però semplicemente non ha fatturato se era una partita IVA. Stiamo parlando del 30% del totale, però il 71% non ha avuto una variazione di reddito, tant'è che in questo rapporto firmato assieme ad Assogestioni si calcola che la liquidità, un nuovo boom di liquidità nei portafogli delle famiglie italiane è pari all'intero valore di quello che sarebbe il famoso MES per l'Italia, cioè nei tre mesi dell'epidemia tra febbraio e aprile è aumentata la liquidità degli italiani di 34,4 miliardi e si tratta, diciamo, di risorse che si aggiungono ai 121 miliardi di liquidità aggiuntiva accumulate negli ultimi tre anni, quindi prima dell'esplosione del Covid. Su questo il segretario generale del Censis, Giorgio De Rita, è stato intervistato dalla nostra Deborah Rosciani. La popolazione italiana in questi mesi di chiusura delle attività produttive ha incrementato ulteriormente il suo risparmio di circa 34 miliardi di euro nei tre mesi più neri della pandemia. Circa il 70% dei percettori di reddito in Italia hanno visto inalterati i propri redditi e per necessità abbattuto i propri consumi, quindi in qualche modo ce lo potevamo aspettare. Quello che invece non ci aspettavamo è che il sentimento di preoccupazione verso il futuro, nel lungo periodo, nella tutela della famiglia e della propria salute, in qualche modo si concentrasse, collassasse quasi in una paura per il quotidiano, in un'incertezza sull'oggi, sul domani. La pandemia di fatto ha cambiato tutto, ha detto agli italiani, ha fatto dire agli italiani tutto può succedere. E quindi il risparmio diventa una condizione strutturalmente diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto negli ultimi 4-5 anni, perché non deve fronteggiare soltanto il futuro dei prossimi 4-5-10 anni, ma deve fronteggiare l'emergenza quotidiana. Ancora un paio di notizie. La prima riguarda Google, che investirà in Italia 900 milioni di dollari in 5 anni in partnership con Team per avviare l'iniziativa Italia in Digitale, un nuovo piano dedicato alle piccole e medie imprese. Per quello che riguarda invece il settore scuola, poco fa la ministra dell'istruzione Azzolina al Question Time ha detto: la dirigenza scolastica non è stata affatto lasciata sola a fronteggiare i problemi, è forte l'impegno del Ministero in tutte le sue componenti. Poi ha detto: attenzione, il commissario straordinario Arcuri non è incaricato della gestione della ripresa della scuola. Si prevede esclusivamente che il commissario straordinario disponga, fino al termine dello stato di emergenza, degli speciali poteri ai soli acquisti delle dotazioni strumentali eventualmente necessarie al contenimento del Covid. Questo perché molti avevano visto nella decisione di dare ad Arcuri il potere di fare gli acquisti per tutto quello che serve o dovrebbe servire per la ripartenza in sicurezza della scuola, molti avevano visto un commissariamento della Azzolina, e mi sembra che questa risposta, questa scusazione non petita, vada in questa direzione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Metti. Non voglio mettere. Sì, adesso andiamo sul meteo. Vedo alcuni messaggi sul rapporto Censis, dove aumenta la paura aumenta anche il risparmio. Ci mancherebbe, proprio questo, ed è questo il motivo per cui personalmente sono scettico sull'idea di che una riduzione delle tasse, una riduzione fiscale in questo momento possa far ripartire i consumi, perché se tu continui a aver paura e incertezza sul futuro, quei soldi che ti restano in più in busta paga, a meno che tu non sia già su una condizione di estrema indigenza, li metti sotto il materasso, li lasci in banca, non li spendi, ed ecco perché mi convincono di più i piani di investimento infrastrutturali. Dopodiché attenzione che quella del Censis sia una fotografia in questo caso veramente in chiaroscuro. La parte chiara è quel 70% di lavoratori che non hanno avuto, lavoratori o comunque percettori di reddito come pensionati, non hanno avuto un danno. e il 30% però vive situazioni in alcuni casi pesantissime. Ecco perché da un lato vedi un aumento così forte della liquidità pari a 34 miliardi di euro, e dall'altro però abbiamo anche crollo di consumi e statistiche molto pesanti sui consumi. E il tentativo dovrebbe essere di riavvicinare queste due Italie, quella che ha paura ma non ha avuto un danno economico diretto, e quella che invece ha paura ma soprattutto ha avuto un danno economico e ha paura di non riuscire a superare il danno economico dovuto alla chiusura e ai fatturati più bassi. Comunque adesso c'è il meteo veramente e la pubblicità, poi parliamo del ponte di Genova per capire che strada, che uscita si potrebbe trovare da quello che è un innegabile vicolo cieco a mio avviso in questo momento, perché hai poco tempo prima della riconsegna inizio agosto e non ho ancora capito bene, nonostante varie dichiarazioni, come si possa fare revocare una concessione se non si è riusciti in due anni, evidentemente per il rischio di penali altissime. Si stima che anche con l'ultima novità potrebbe essere un costo per lo Stato di 6 miliardi di euro. Ne parliamo dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Minuti. Allora, il tema, al di là del vertice al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Autostrade per l'Italia, le dichiarazioni in primis, compatto il fronte dei 5 Stelle, Stefano Buffagni, Vice Ministro dello Sviluppo Economico, è fondamentale che Benetton non gestiscano più le autostrade, che venga garantita la massima sicurezza sulle nostre infrastrutture, che vengano fatti controlli seri e non report falsificati e che le tariffe vengano abbassate. Cancellieri, Vice Ministro delle Infrastrutture, il governo mette la parola fine, non possiamo più aspettare, quindi anche lui però ha aperto una quota di minoranza per autostrade, cioè dentro di Atlantia in autostrade, e poi ha aggiunto Cancellieri, serve un commissario di governo. Anche il sottosegretario dell'ambiente Morassut ha detto del PD la revoca non è impossibile, ma per farlo con una forte attrezzatura giuridica e formale. E questa mattina, 24 mattino, l'ex ministro sviluppo economico della Lega Dario, vice ministro sviluppo economico della Lega Dario Galli, proprio sulla revoca o meno della concessione. O da parte della società Autostrade, una volta individuati i responsabili e sostituiti i responsabili, fanno un piano industriale dove fanno vedere, come dire, che con i soldi che hanno a disposizione, con i pedaggi, con le altre entrate, comunque fanno un piano di recupero del tempo perduto per quanto riguarda le manutenzioni adeguati, oppure, anche se sono cose ovviamente complicate e difficili, per manifesta inadempienza a questo punto si toglie la concessione in anticipo e si rifà una gara nuova. Ma questa è una cosa normale in qualunque altra situazione. Essere favorevoli indica, come dire, una presa di posizione di campo, cioè, per essere chiari, chi è con i Benetton, chi è contro i Benetton. Noi non siamo né per né contro nessuno. C'è di mezzo un bene pubblico. Chi si porta a casa le autostrade? Si porta a casa il monopolio di quel settore economico. In cambio di quello è evidente che ci deve essere un'assoluta trasparenza di comportamento, ma soprattutto un'adeguata, come dire, indicazione di come quei soldi che vengono prelevati ai cittadini vengono reinvestiti con una parte di guadagno che deve essere veramente il giusto guadagno di tipo industriale. Non si può avere il 50% di EBITDA. Sono d'accordissimo con Galli sulle le mancanze un po' debole degli azionisti di riferimento. Allora vediamo di capirci. Autostrade per l'Italia è partecipata all'88% da Atlantia, che è una holding. Dentro Atlantia i Benetton hanno una quota importantissima, perché su questo poi si gioca tutta la partita. E adesso chiarisco perché mi interessa, perché i Benetton attraverso Sintonia hanno il 30% di Atlantia, che appunto ha l'80%, 88% di Autostrade per l'Italia. Poi dentro Atlantia ci sono anche altre cose, gli aeroporti di Fiumicino, di Ciampino, Nizza, Saint-Tropez, c'è anche Abertis e quant'altro, però o meglio la sintonia a poi il 50% di Aberzi. Ma detto questo, cito le percentuali, perché da un lato il neo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Tomasi ha detto: attenzione, noi abbiamo 7 miliardi di euro di 14 e mezzo già pianificati che possono essere trasformati subito in cantieri, magari non in Liguria in questo momento, ecco, direi io. A mio avviso, ma qui giro la domanda a chi ne sa molto più di me, ossia Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Maurizio, buonasera. Buonasera. Più che la battaglia su chi deve ricevere in concessione il Ponte Morandi, perché mi sembra chiaro che o tu fai una cosa in 2 settimane e mezzo o se no l'attuale concessionario deve gestire anche quella tratta, forse l'escamotage, l'uscita da questa contrapposizione potrebbe arrivare proprio dalle quote azionarie di Atlantia dentro Autostrade per l'Italia e conseguentemente quindi dei Benetton. C'era stata un'ipotesi di vedere Atlantia scendere almeno sotto il 50% di Autostrade per l'Italia e far intervenire Cassa Depositi e Prestiti, il fondo F2I. Maurizio. Sì, assolutamente, una cosa anticipata da Sole 24 Ore, certo, da mesi, è assolutamente sul tavolo, le trattative sono andate avanti e quindi è assolutamente sorprendente che qualcuno si stupisca come è successo ieri, insomma. Può stupirsi magari l'uomo della strada che non si informa adeguatamente, però insomma certe dichiarazioni politiche lasciano veramente il tempo che trovano. Il punto vero è come si fa però a far entrare questi nuovi soggetti, sia pubblici sia privati, nel capitale di Autostrade. Allora si sta facendo strada l'ipotesi che questo ingresso avvenga con un aumento di capitale, quindi Autostrade riuscirebbe a avere una specie di polmone finanziario che la tirerebbe fuori dalle secche, questo debito. Cioè fai un aumento di capitale in cui sostanzialmente Atlantia quindi scende nella sua quota e aumenta invece, entra un nuovo soggetto, CDP o F2I o tutte e due. Esatto, entrano questi e in totale il patrimonio della società si rafforza per far meglio fronte al debito che è diventato spazzatura dall'inizio dell'anno. 36 miliardi. Esatto. E dopodiché si deve far fronte a un piano non solo di investimenti, perché qui si parla di investimenti, ma soprattutto sono le manutenzioni. Nel dibattito pubblico il grande assente è il fatto che i Benetton lasciano un buco a livello di manutenzioni non fatte che può arrivare anche a 20 miliardi, cioè una manovra economica. Adesso chi li mette questi 20 miliardi? Quindi nella trattativa non c'è solo il nuovo assetto azionario, ma anche una possibile penale che i Benetton debbano versare, per evitare anche che questi 20 miliardi poi ce li debbano mettere in parte loro, ma soprattutto se perdono la maggioranza, appunto tutti gli altri soci subentranti. E se ci sono soci pubblici è chiaro che in parte paghiamo anche noi tutti. Sì, fai bene a notare anche questo aspetto, perché c'è come uscire dal da questo vicolo cieco anche politico, perché tu dicevi: ma come fanno a sorprendersi certi politici? Ho capito, evidentemente vedono in quello un dividendo di carattere elettorale, cioè nel dire mai e poi mai il ponte dato all'Autostrade per l'Italia. È chiaro che il ragionamento non è concreto, perché o riesci a trovare un'altra soluzione, o il ponte lo dai a chi sta gestendo il resto della rete in quella regione. Non puoi immaginarti un gestore solo per il ponte, però, e quindi il modo per far uscire da questo vicolo cieco politico potrebbe essere quello di avere una riduzione significativa sotto la quota di maggioranza della partecipazione di Atlantia e quindi dei Benetton dentro Autostrade per l'Italia. Però tu, Maurizio, fai notare una cosa importantissima: siccome, e non lo dice il sottoscritto, non lo dice Caprino, lo ha detto l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che la gestione della rete e l'ammodernamento, messa in sicurezza, manutenzione è stata del tutto insufficiente in questi anni, anche perché tu facevi notare che ci sono 36 miliardi, quasi 37 miliardi di debito in Atlantia. Però qualcuno di voi conosce la battuta: il convento è povero ma i frati sono ricchi, perché a me invece risulta che gli azionisti, non solo Atlantia ma anche Sintonia, qualche dividendo l'abbiano distribuito in questi anni. però c'è tutto il tema dei lavori non fatti. Ora, come si esce da questo? Perché occorre fare anche un calcolo ben preciso, io ci capisco poco, Maurizio, ma tu dovresti avere in mano la stima di quanto ti costerà fare la manutenzione che non è stata fatta, al di là degli investimenti di cui parla Tomasi, che parla di 7 miliardi su 14 e mezzo già pianificati, e da lì poi andare a contestare anche all'azionista attuale, no? Esatto, quindi ci vuole un contenzioso molto lungo e bisogna poi andare a prendere questi soldi, questi profitti percepiti in 20 anni, bisogna andare a vedere dove stanno adesso, se non se li sono già spesi, insomma, e quindi diventa una corsa praticamente all'impossibile. Quindi la sentenza di ieri della Corte Costituzionale dà una mano al governo in questa trattativa che è forse il mezzo più ragionevole per recuperare il più possibile di questi 20 miliardi che mancano. L'altra questione importante è che poi mancano ulteriori 20 miliardi, ma non è un buco dei Benetton, è un buco di tutto il sistema delle autostrade a pedaggio italiane, perché i Benetton hanno praticamente metà della rete autostrada a pedaggio, ma non crediate che il resto sia messo meglio. Quindi anche la questione nella revoca il Benetton e poi tutti gli altri sono santi, beh, onestamente lascia il tempo che trova. Anche la stessa ANAS, che a norma del mille proroghe dovrebbe subentrare nella gestione ad Autostrade per Italia in caso di revoca, beh, è la stessa ANAS che non più tardi dell'aprile scorso si è fatta crollare un ponte durante il lockdown, quando non ci stava passando nessuno. È la stessa ANAS che meno di 10 anni fa ha fatto crollare il viadotto Scorciavacche in Sicilia appena inaugurato. Quindi qui c'è un problema strutturale del paese che coinvolge fortemente anche il Ministero delle Infrastrutture e credo che questo sia a cuore a tutti, al di là degli aspetti economici e finanziari. Sì, sono d'accordo con te, infatti abbiamo visto problemi anche sulla rete, per esempio gestita o data pochi anni fa da Gavio a Benetton, ricordiamo casi anche di questo tipo, e l'ANAS obiettivamente non può certo vantare un passato virtuoso da questo punto di vista. Noi ce ne occupiamo molte volte, qualcuno mi sta scrivendo di Ciucci non è più all'ANAS, però certo che quando avevi, e lì però la responsabilità è anche di quei governi, perché tu dai la possibilità a uno di fare l'amministratore legato, il presidente, il direttore generale, di aumentarsi lo stipendio, finì in classifica non so quante volte, Ciucci in una poco invidiabile classifica, è chiaro che poi i nodi vengono a pettine ed è più difficile districarsi. Senti Maurizio, la tua sensazione, visto che oggi c'è questo incontro al Ministero e Conte, ma anche il Governo ha detto che vuole chiudere entro la prossima settimana, è che si arrivi a quale soluzione? Una consegna pro tempore mentre si va ad annunciare, per esempio, una riduzione significativa della quota societaria di Atlantia in Aspi? Sì, è possibile, diciamo che alla fine la trattativa, andare avanti in questa trattativa conviene a tutti, è la soluzione meno traumatica e ripeto, la revoca, agitare ancora la revoca serve a distrarre, a trovare un capro espiatorio. Allora, per tutto il male che possiamo volere ai Benetton, certamente non si sono comportati bene, però ripeto, qui c'è un problema di sistema, sì, che non è soltanto la pelle di chi viaggia sulle autostrade, ma anche proprio l'economia, perché stiamo vedendo che la paralisi ligure poi alla fine ha delle conseguenze anche sul sistema produttivo, sul turismo, sul porto di Genova e tutto quello che vogliamo. E guardate che questa situazione si può ripetere ovunque, perché le condizioni della rete stradale sono più o meno uguali ovunque. In Liguria è solo l'inizio, insomma, quindi bisogna fare un piano serio, e mentre si parla solo di grandi opere nuove da fare, invece qui la vera grande opera è quella da fare immediatamente, che è quella di rimettere in sesto tutto quello che già abbiamo. Maurizio, un'ultima domanda, ma a questo proposito i 14 miliardi e mezzo e i 7 subito disponibili annunciati da Tomasi sono realmente subito cantieri che potrebbero partire? Allora, lì bisogna vedere, perché c'è dentro anche la Gronda che è ostaggio sempre al Ministero delle Infrastrutture, perché il progetto esecutivo, c'è già tutto, è tutto pronto, manca una firma sotto il progetto esecutivo. Poi ripeto... Perché manca la firma, scusa? Manca la firma perché la precedente gestione del Ministero, quindi quella a firma 5 Stelle, esatto, era... contraria appunto alle grandi opere, e avendo dovuto digerire il boccone indigesto appunto della TAV, si è poi impuntata sulla Gronda. Allora, nel frattempo, mentre qui ci sono posizionamenti politici, oggi 9 chilometri di coda a Genova. Totti, il governatore, ha detto si rischia la paralisi totale verso la Liguria e serve un confronto subito con il ministro De Micheli. E Federlogistica chiede di posticipare i lavori sulla linea ferroviaria Genova-Milano, il terzo valico, per di almeno 3 settimane, perché il sistema portuale ligure non reggerebbe contemporaneamente il blocco autostradale e quello ferroviario. Lo credo anch'io. Grazie Maurizio Caprino, andiamo su GR24. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Nove minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa ha chiuso sui livelli minimi di seduta, meno 2% Milano, e visto che parlavamo di Atlantia e della situazione sulla concessione, Atlantia è il peggior titolo, meno 8,30% oggi, poi Saipem meno 4,5% come Leonardo, Di Assori meno 4,30%, Banco BPM meno 3,60% come Tenaris, il 3,5% lo perde Interpump e Unicredit, il 3% del caro di Generali e Banca Mediolanum, ma anche di Fineco ed Eni. Fronte opposto Campari più 1,70%, Steam Microelectronics più 1,20%. Segnalo che Parigi ha perso l'1,20%, Londra l'1,70%, diverso il caso di Francoforte che ha chiuso invariata. Torniamo a parlare del turismo, ma non solo per i dati che continuano ad arrivare sul calo, in alcuni casi un crollo del settore. Perché? Perché oggi Federalberghi ha stimato a giugno un calo delle presenze dell'80% rispetto al giugno 2019. Paralizzati i flussi dall'estero, meno 93%, e anche il mercato domestico, meno 67%. Un po' meglio sta andando da quello che ci riferiscono varie fonti nel mese di luglio, però intanto Federalberghi segnala persi 110.000 posti di lavoro stagionali e temporanei di varia natura, 58% in meno, mentre per i mesi estivi sono a rischio 140.000 posti di lavoro temporanei. Dice Federalberghi, attenzione, per luglio le previsioni non sono tranquillizzanti, perché l'80% delle strutture intervistate prevede che il fatturato sarà più che dimezzato e nel 60% addirittura meno 70%. E poi il presidente Federalberghi, Bocca, ha detto perderemo 295 milioni di presenze nel 2020, con un calo del fatturato di quasi 16 miliardi, cioè 70% in meno. Questo è il monitoraggio che arriva mensilmente da Federalberghi su 2000 alberghi, strutture ricettive del paese. A Milano, nello specifico, la stima del comune è di 6 milioni di turisti in meno nel 2020, 3 milioni e 700 mila in meno nel 2021, quindi un meno 57% nel 2020 quest'anno, un meno 35% nel 2021. È partito anche un piano di marketing per il rilancio in accordo tra comune e albergatori, una notte gratuita a Milano per i prossimi 12 mesi se si pernotta almeno due notti, quindi la terza è gratuita. Per il bonus vacanze, allora, il bonus vacanze sta andando come richiesta, secondo me abbastanza bene, 400.000 richieste per 183 milioni di euro di spesa. Sono quasi 13.000 le persone che hanno già usato il bonus in albergo. Questi numeri li ha diffusi il ministro ai beni culturali e turismo Dario Franceschini. Il problema è che solo, stando sempre al ministero, solo un albergo su 5 li accetta, perché sappiamo che andando poi in credito d'imposta comunque c'è un mancato fatturato, diciamo, da parte dell'albergatore. Ne ha parlato il nostro Alessio Maurizi durante Effetto Giorno con il presidente della sezione albergatori di Confindustria Firenze, Giancarlo Carniani, che è anche general manager dell'hotel Plaza Lucchesi a Firenze. La criticità che noi albergatori abbiamo detto fin dall'inizio è proprio sulla modalità. Innanzitutto chiedevamo liquidità, chiedevamo del cash utilizzabile immediatamente, perché le condizioni del turismo, lo sapete tutti, sono molto difficili, in special modo a Firenze, la città d'arte, dove sono in questo momento ci sono soltanto circa il 30-35% di alberghi aperti, i turisti sono pochissimi, abbiamo necessità di liquidità immediata, e questo voucher aiuta poco. Quelle erano le nostre richieste. È una misura un po' populista che va a aiutare famiglie sotto un reddito di 40.000 euro che oggettivamente hanno necessità di un aiuto per andare in vacanza, ma noi non ci aiuta assolutamente, perché ci mette in condizione di avere ancora più credito. Abbiamo fatto noi un sondaggio tra i nostri associati qui in città e ci risulta che uno su cinque accetta il voucher, con procedure del quale la maggior parte ancora non hanno ben capito il funzionamento. Se ci fosse il modo di trasformarla in una misura immediatamente bancabile, per quanto riguarda noi albergatori, credo che ognuno di noi sarebbe felice di accettarla. È vero che il ministro Gualtieri ha detto che è un credito cedibile, insomma, ma diventa difficile pensare che in qualche modo possa essere ceduto a terzi. Se lo vado a portare per uno sconto in banca, comunque ho un'ulteriore commissione. È per noi oggettivamente un periodo veramente difficile. Molti non l'accettano perché non hanno capito in maniera la burocrazia per accettarlo. E allora, questo purtroppo devo dire che, al di là delle buone intenzioni della domanda, che mi sembra appunto alta, è molto farraginoso il meccanismo, anche perché forse era meglio prevedere un bonus diretto, spendibile, però è chiaro che in questo momento chiedere al Monte Strutture Alberghiere di anticipare, o almeno di anticipare e non avere un fatturato che poi porterà in credito d'imposta, diventa in questo periodo particolarmente complesso. Vorrei però occuparmi anche di un altro aspetto, perché oggi è intervenuta la Commissione Europea dicendo che sta monitorando quello che sta facendo l'Italia in quanto a proroga delle concessioni balneari. Che cosa è successo? Allora, la direttiva Bolkestein, emanata dalla Commissione Europea e recepita dall'Italia solo nel 2010, prevede che le concessioni marittime devono essere assegnate con gara pubblica, e c'è il rischio di una procedura di infrazione. Però noi, che avevamo già dato un sistema di proroga automatica senza gara delle concessioni fino al 31 dicembre 2020, la legge era del 2012, poi con la legge di bilancio del 2018 abbiamo prorogato automaticamente per altri 15 anni fino al 31 dicembre 2033, e nel DL rilancio, grazie a una norma approvata con un emendamento a firma di Deborah Bergamini, Forza Italia, vi è stato un esplicito impedimento ai comuni e alle autorità portuali di effettuare la messa in gara delle concessioni in essere fino al 2033, quindi viene esplicitato il divieto. La Commissione ha detto: vogliamo capire, e l'ho detto oggi, se abbiamo acceso un faro, se le norme dell'Italia stanno rispettando il diritto dell'Unione, e cosa sta facendo l'Italia per arrivare a uniformarsi al diritto dell'Unione sugli stabilimenti balneari. Faccio notare che il rapporto di Legambiente nel 2016 spiegava come su 52.000 concessioni demaniali lo Stato avesse incassato poco più di 103 milioni di euro a fronte di un giro stimato di 15 miliardi. Poi ci sono dei casi, chiaro che ogni bagno, stabilimento balneare è diverso, ma in Costa Smeralda l'hotel Cala di Volpe pagava 520 euro l'anno per la spiaggia di Sciaruia. Per 59 concessioni del comune di Arzachena lo Stato incamerava canoni per 19.000 euro l'anno. Per il Twiga di Marina di Pietrasanta, Fabio Beatore paga 17.000 euro lo Stato a fronte di un fatturato di 4 milioni. Al Papete di Milano Marittima, famoso per altri motivi, i ricavi sono di 3.200.000 euro, ma il canone è di 10.000 euro. Allora, la domanda che voglio fare a chi rappresenta il sindacato italiano balneari, Antonio Capacchione, di nuovo buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Senta, nessuno, io immagino che questo fosse proprio l'anno in cui non puoi mettere a gara le concessioni, ci mancherebbe, e non si poteva intervenire nella materia in un anno così difficile per tutti gli stabilimenti balneari, ma a suo avviso non si poteva, almeno diciamo, per non incorrere in quello che è il rischio di infrazione europea, posticipare di un anno, per qualità, sospendere tutto vista l'emergenza anche e soprattutto nel settore turismo, ma poi andare a cercare di mettere a gara queste concessioni? Ma guardi, noi abbiamo una legge del 2018, la 145, che stabilisce, come lei giustamente ha detto, una proroga di 15 anni. Questa legge non è stata impugnata dalla Commissione europea, cioè sono passati quasi 2 anni, non c'è stata alcuna procedura di infrazione. Nel contempo la Commissione europea nei confronti dello Stato italiano ha avviato 35 procedure di infrazione, tra messa in mora, parere motivato, 35. Perché? Perché quella norma italiana, di cui il decreto di rilancio non fa altro che cercare di evitare un possibile contenzioso, perché ci sono molti comuni che non l'hanno applicata a distanza di un anno e mezzo, perché la razza di quella norma è evitiamo che si crei un contenzioso alla scadenza del 31/12/2020 nel caso in cui un comune non avesse applicato la legge di circa 2 anni fa. Allora, come mai la Commissione europea non ha avviato, nonostante che ci siano state molte sollecitazioni provenienti da alcuni ambienti politici ben definiti dall'Italia, una procedura di infrazione? Perché quella norma è conforme alla sentenza della Corte di Giustizia, perché quella sentenza della Corte di Giustizia del 14 di luglio del 2016 dice no alle proroghe automatiche generalizzate, ma dice altrettanto anche di tutelare il legittimo affidamento dei concessionari che hanno appunto confidato in un comportamento nella legge, nei provvedimenti amministrativi dello Stato. Quindi la legge del 2018, giustamente non impugnata dalla Commissione europea, è un tentativo dello Stato italiano di bilanciare l'esigenza dell'apertura alla concorrenza con la tutela del legittimo affidamento delle concessioni in essere. Ecco perché come dire, c'è una riflessione, è un confronto fra lo Stato italiano e la Commissione europea per i contenuti di quel DPCM che doveva essere emanato entro il 30 aprile del 2019 e non lo è stato ancora, affinché appunto il processo di riforma, che riguarderà anche i canoni, perché i canoni demaniali sono canoni ingiusti, c'è chi paga pochissimo e c'è chi paga tantissimo, quindi è indispensabile un riequilibrio. Ma vorrei sottolineare un aspetto molto importante: non è che i concessionari balneari pagano questo e basta lo no Stato. No, ma sappiamo benissimo che poi la gestione, prego, no, vorrei è solo l'utilizzo della parte demaniale, è ovvio che non è tenga presente questo, che l'IVA che si applica ai balneari è più del doppio di quello che riguarda tutte le imprese turistiche, cioè il grande albergo paga il 10%, il concessionario balneare paga il 22%, il concessionario balneare è tenuto a pagamento dell'IMU pur non essendo proprietario, il concessionario balneare è tenuto a pagamento della tassa di immondizia anche quando è chiuso, in contrasto con il principio comunitario di chi inquini paga. I dati di Legambiente sono dati inesatti, fuorvianti, perché non ci sono gli incassi di alcune regioni, perché alcune, il canone per la Sicilia, per il Friuli Venezia Giulia, non va all'erario, va alle regioni, non tiene conto delle maggiorazioni che arrivano anche al 100%, che si paga a titolo di canone, che va alle regioni e ai comuni. Ecco perché sono dati fuorvianti. I cosiddetti 15 miliardi di uno studio di Nomisba di quasi 15 anni fa sono in riferimento al valore economico per i rifacimenti. Quindi si utilizzano dei dati sbagliati, dei dati come dire, però, non Camacchione, mi sembra per un attacco ai balneari, okay, cosa no, che avviene adesso, ogni anno, no, adesso, insomma, io non vi ho mai criminalizzazione di questo non vi ho mai attaccato, vi ho invitato molte volte in queste settimane, si figuri, perché capisco la vostra crisi. No, ma mi sembra di capire in maniera costruttiva che anche lei dice va bene, andiamo a rivedere poi, perché c'è chi paga troppo poco e chi paga troppo, andiamo a rivederle con i dati complessivi, assolutamente sì, con assolutamente. I dati complessivi di quello che è poi l'incidenza, il carico fiscale complessivo, perché le fa bene ricordare anche altre cose che non emergono, però è innegabile che da questo punto di vista, in questo caso, la Commissione europea, al di là della dichiarazione di oggi, non si sia mai mossa. Lei fa bene a far notare che invece su altre procedure di infrazione è stata molto solerte e sono già arrivate. Un'ultima domanda che non c'entra però con la direttiva Bolkestein, visto che commentavi i dati di Federalberghi, a voi non risulta che luglio stia andando un po' meglio rispetto a giugno? Chiaramente la penisola è molto lunga, ma diciamo soprattutto nelle località dove da sempre la presenza dei turisti italiani è più forte? Sì, ci sono dei dati incoraggianti, però la tendenza è quella che ha evidenziato Federalberghi, cioè c'è una ripresa molto debole, turismo domestico di prossimità concentrato il fine settimana, ciò che rende molto vulnerabile il flusso turistico, perché se c'è cattivo tempo gente non si muove, non prenota, quindi c'è ancora tanta paura in giro, c'è ancora una debolezza della domanda interna che abbiamo evidenziato anche noi con i dati di giugno. Avvertiamo dei segnali incoraggianti, purtroppo ancora flebili. Ci auguriamo che la tendenza cambi nelle prossime settimane, aiutati anche dal tempo. Ci auguriamo che il tempo, perché come dicevo, il turismo di prossimità è molto vulnerabile, perché appunto dipende anche dalle condizioni meteorologiche. Se piove, grandi, ma c'è vento. No, ma ho capito benissimo, cioè la tendenza è un miglioramento, ma con una dote di estrema fragilità. Grazie anche a chi rappresenta il sindacato italiano balneari, Antonio Capacchione. E adesso spostiamoci su un altro settore, dicevo, uno dei pochi che non siamo riusciti a raccontare in queste settimane. E iniziamo a raccontarlo perché non avrò il tempo per approfondirlo tutto, poi rimando domani. Intanto ringrazio Matteo Lunelli, presidente di Alta Gamma, che accoglie 108 marchi, quindi aziende del settore moda, design, gioielleria, alimentare, hotel, motori e nautica. Buonasera Lunelli. Buonasera. Dunque, voi avete avuto un incontro con, chiaramente virtuale, con l'Ufficio parlamentare europeo in Italia, con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, per avere e avete presentato quello che si chiama position papers, insomma 10 raccomandazioni per allineare la posizione italiana a quella dell'associazione europea. Io faccio notare che il mercato alto di gamma, a me non piace il termine lusso, vale il 4% del PIL europeo, 1200 miliardi, e noi come Italia abbiamo una quota del 7% quasi, 115 miliardi, con 400 mila addetti. Siamo nei primi posti a livello mondiale nell'alta gamma dell'arredamento, abbiamo il 30% del totale, 23% per il lusso, inteso come abbigliamento, accessori e calzature, il 30% nell'alta gamma del food and beverage, ristorazione, e il 22% per vini, liquori, il 40% della nautica. Che cosa in estrema sintesi prevede il vostro position paper, come si chiama in gergo? Beh, innanzitutto, partendo proprio dai dati che sono stati appena elencati, noi vorremmo che il settore dell'alto di gamma sia considerato come un settore strategico in Italia e in Europa. Noi riteniamo che questo sia un settore che può essere protagonista anche della ripresa, può essere una locomotiva per la nostra economia. È stato fortemente impattato dalla crisi del Covid, perché in questo momento mancano, si è chiuso il retail, non c'è turismo, non c'è convivialità, e l'alto di gamma sicuramente quindi è stato colpito da tutto questo. Però riteniamo che proprio in una fase di ripresa possa essere invece una locomotiva per l'economia italiana e europea. Un altro dato che mi è stato citato, che a me piace molto sottolineare, è che l'alto di gamma in Europa, quella che è l'industria culturale e creativa, conta per il 10% dell'export dell'Unione, e l'Europa è il più grande produttore di lusso, il più grande mercato del lusso e il più grande esportatore del lusso, in un mondo in cui invece la maggior parte dei settori tendono a essere prede, o comunque tendono a essere posizionati prevalentemente o in Cina o in America. Ecco, l'Europa è il settore dell'alto di gamma, è eurocentrico invece e può essere quindi una locomotiva per la ripresa. Però bisogna mettere questo settore al centro della strategia industriale e politica del paese, quindi dell'Italia e dell'Europa, ed è questo che abbiamo chiesto. Oggi c'è questa occasione poi del Recovery Fund, e quindi abbiamo parlato anche in relazione. Ci sono poi dei settori che sono parte del nostro, diciamo, dell'alto di gamma, ma che sono sinergici all'alto di gamma. In particolare, prima ho sentito che avete parlato di turismo. Certo. Tra le nostre raccomandazioni, ad esempio, c'è la necessità di scommettere, di investire sulla ripresa del turismo, perché il turismo è una leva strategica di sviluppo dell'eccellenza del Made in Italy. Ad esempio, il 60% degli acquisti dei beni di lusso sono fatti da turisti in Italia. E poi abbiamo appunto elencato altri punti che sono fondamentali per noi, che sono anzitutto ad esempio il fatto di combattere ogni forma di protezionismo. Bisogna evitare assolutamente che, usciti dal Covid, alcuni nostri settori, il vino in primis ovviamente mi sta a cuore, visto che certo, è questo il mio settore, è impossibile pensare che usciti da questo Covid si riparte con la guerra dei dazi. Noi la riavremo ospite. È importante anche un altro punto, che è quello di cui spesso ci siamo occupati anche con lei, della proprietà intellettuale, lotta alla contraffazione, ma ci tenevo a ricordare questo documento che voi avete presentato appunto in vista dell'appuntamento europeo del 16-17 luglio, che non sarà sicuramente decisivo, ahimè, per il Recovery Fund, ma almeno, diciamo, siete riusciti a portare questo insieme di punti alla discussione. Ripeto, noi siamo un paese fortissimo sull'alta gamma, ma non siamo l'unico. Nel ringraziare anche Matteo Lunelli, che avremo ospite, auguro a tutti voi una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.